Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia in 24 minuti. Per Garibaldi, viva! Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a questa puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento. Iniziamo con una breve premessa. Tutto ha preso l'avvio 4 millenni fa con insediamenti di popolazioni indoeuropee, poi con gli Etruschi e nel 753 avanti Cristo con due fratelli piuttosto famosi, Romolo e Remolo. Più o meno, dei due fu Romolo a fondare Roma e nel giro di 5 secoli circa l'Italia viene unita, Sicilia e Tirolo compresi, sotto la dominazione latina, ma poi l'impero va in crisi. Alt! Qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non se passa! Chi siete? Barbari! Che cosa volete? Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro! E la penisola la invadono i Visigoti, i Burgundi, i Longobardi e naturalmente gli Unni. Ci vorranno 2000 anni per far sì che dalle Alpi a Lampedusa ritorni ad esservi una sola entità politica e territoriale. Omettiamo qualche passaggio, una 15 secoli circa, e andiamo dritti sul finire del Settecento, quando arriva uno che sconvolge tutto. Nome italiano, corso di nascita, francese praticamente per sbaglio. Si tratta di Napoleone Bonaparte, giovane generale nella Francia rivoluzionaria. In pochi anni conquista praticamente tutta Italia, fonda repubbliche sul modello di quella francese, a Napoli, a Roma, con il Papa arrestato e confinato in Francia, e le repubbliche cisalpine e cispadana, e quest'ultima che sceglie come sua bandiera il tricolore, che appare così per la prima volta. A Napoli dura poco, il popolo non ci sta, il sentimento religioso è troppo forte. Ferdinando IV, fuggito in Sicilia, si fa appoggiare dal cardinale Fabrizio Ruffo, che raccoglie un esercito che verrà chiamato dei Sanfedisti. Entrano a Napoli al suono di una canzone che diventerà popolare, ma che per i repubblicani sarà simbolo di terrore. Dall'altra parte d'Italia gli austriaci e i russi rimettono le mani sul nord. Dura poco anche qua. Bonaparte si è fatto proclamare primo console di Francia e lo riconquista il nord dopo aver battuto gli austriaci a Marengo. Annette il Piemonte, ricostituisce la Repubblica Cisalpina, poi la rinomina. Chiama Repubblica Italiana, il presidente è lui, vicepresidente Francesco Melzi-Deril. Nel 1805, quando Napoleone si incorona imperatore di Francia, diventa Regno d'Italia, incorporando il Veneto e l'Istria, e lui è il re. Tra il 1806 e il 1809 il neo imperatore e neo re si prende tutta la penisola, escluse Sicilia e Sardegna, compresa Roma. Santità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini. Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso, ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale mio lì, che le indicherà il luogo della sua destinazione. Così Pio VII viene arrestato e deportato. Bonaparte tiene le mani su Roma, mentre sul trono di Napoli installa un suo fedelissimo generale, compagno di grandi battaglie, Gioacchino Murat. Teniamolo presente perché tra poco sarà importante. L'epoca di Napoleone si avvia alla conclusione con la disastrosa campagna di Russia, con la sconfitta di Lipsia. Mentre è già in corso il congresso di Vienna per ridefinire gli assetti d'Europa, ci riprova. Torna dal suo esilio dell'Elba, riprende Parigi, ma il tutto dura un centinaio di giorni e si conclude a Waterloo, in Belgio. Il primo uomo a fregiarsi del titolo di presidente della Repubblica Italiana conclude così la sua epopea e finisce esiliato su un'isola lontana, un possedimento inglese in mezzo all'Atlantico di nome Sant'Elena. Morirà qua e qua scriverà le sue memorie. Ci vorrà almeno una generazione, dirà, prima che gli italiani siano pronti all'indipendenza e all'unità. La profezia è incerta. C'è sempre una speranza. In realtà aveva perfettamente ragione. A Vienna si accelerano intanto le conclusioni del congresso. Apparentemente c'è un ripristino dello Stato antecedente alla rivoluzione francese. In realtà i veri dominatori d'Italia sono gli austriaci. Avevamo lasciato indietro un personaggio. Uno dei primi e forse più affascinanti patrioti italiani fu un francese. No, non parliamo di Napoleone, ma del suo generale Gioacchino Murat. Non brilla per intelligenza tattica o strategica, ma pare abbia fegato da vendere. Mentre il suo imperatore cerca di riprendere il potere, Murat è interessato a conservare il suo trono, quello del regno di Napoli. Fatevi amare. Fu lui stesso a dirmelo, mandandomi a Napoli. Bene. Adesso mi amano. Forse anche perché ho molti dei loro difetti. E anche molti dei loro pregi. Gli faremo capire che Napoli non è dell'impero. Napoli è dei napoletani. Ormai mio fratello non ha scampo. Cerchiamo di non cadere con lui. Prestiamo orecchio alle proposte di alleanza degli austriaci e degli inglesi. Non funziona. Murat tenta di coagulare le pulsioni indipendentiste che attraversano l'Italia, con quello che passerà alla storia come il proclama di Rimini, nel quale incita gli italiani a ribellarsi e a creare un solo paese dalle Alpi alla Sicilia. Tenta lo sbarco in Calabria, viene arrestato a Pizzo Calabro e fucilato, spavaldo fino in fondo. Io, Gioacchino Murat, maresciallo di Francia, granduca di Berg, re di Napoli, muoio in piedi e con gli occhi aperti. Tornano sul trono i sovrani che c'erano prima. Gli sprazzi di liberalismo acquisiti durante l'era bonapartista vengono soppressi. Qualcosa resta, prende corpo una realtà destinata ad attraversare un pezzo consistente del processo unitario. La carboneria è una società segreta, importata probabilmente dalla Francia tramite gli ufficiali di Murat. Ha giurato sulla testa di morto di rispettare le leggi della carboneria? Ha giurato. E ha sostenuto la prova del coraggio? Per quella aspettavamo a te, visto che sei chirurgo e c'hai la mano ferma. Metti la mano sul tavolo e apri le dita. Ma con chi ce l'hanno questi carbonari? Non sono dei veri e propri rivoluzionari, o almeno non tutti. Si professano ufficialmente cattolici, ma il Papa non ci crede, e dal punto di vista politico, sempre ufficialmente, puntano su ipotesi di monarchia costituzionale. L'anno decisivo è il 1820. La scintilla viene innescata da un gruppo di militari spagnoli in procinto di partire per le colonie sudamericane. Non partono, anzi si rivoltano e chiedono una costituzione. Da un regno borbonico all'altro, la ribellione arriva prima di tutto a Napoli, dove anche in questo caso i militari guidati da Guglielmo Pepe, sotto insegne carbonare, costringono Ferdinando I a concedere una carta fondamentale. I moti si estendono alla Sicilia e poi si arriva al mitico marzo del 1821, immortalato da Manzoni in un'ode che rimarrà nel cassetto per oltre 20 anni. Soffermati sull'arida sponda, volti guardi al varcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù. Han giurato, non fia che quest'onda scorra più tra due rive straniere, non fia loco ove sorgan barriere, tra l'Italia e l'Italia mai più. O stranieri, nel proprio retaggio torna l'Italia e il suo suolo riprende. O stranieri, strappate le tende da una terra che è madre non è. Non vedete che tutta si scuote dal cinisio alla balza di Scilla? Non vedete che infila vacilla sotto il peso dei barbari piedi? Cara Italia, dovunque il dolente grido uscì del tuo lungo selvaggio, dove ancora dell'umano lignaggio ogni speme deserta non è. Dove già libertà è fiorita, dove ancora nel segreto battuta, dove a lacrime un'altra sventura, non c'è cor che non batta. Ci vorranno 40 anni prima che quelle barriere cadano definitivamente. Ma cosa ha ispirato il poeta? Il fatto che anche il Piemonte si è ribellato. Il re ha abdicato in favore di Carlo Felice, che però si trova in altri luoghi. Il reggente Carlo Alberto di Savoia decide di concedere la Costituzione. Sì, è lo stesso che più di un quarto di secolo dopo concederà lo statuto che porta il suo nome, un viziaccio per un sovrano. Manzoni immagina dunque che Carlo Alberto, fieramente, alla testa dell'esercito del Regno di Sardegna, passi il Ticino e liberi la Lombardia. Niente da fare. Tanto in Piemonte quanto a Napoli intervengono gli austriaci e i carbonari. Non bastassero le condanne a morte, gli ergastoli, il carcere, si beccano anche la scomunica del Papa. In Piemonte torna il vero re Carlo Felice, fa abbassare le orecchie al cugino e dà il via ad una feroce repressione, la stessa che viene messa in atto a Napoli da Ferdinando. Ci vorranno un'altra decina d'anni prima che alcuni pezzi d'Italia tornino a svegliarsi. È in questi anni che inizia a far parlare di sé un personaggio centrale nelle vicende italiane quanto controverso, un uomo con un'idea dell'Italia ben precisa, espressa con queste parole. Giuro di consacrarmi tutto e per sempre a costituire l'Italia in nazione una, indipendente, libera, repubblicano. Ovviamente stiamo parlando di Giuseppe Mazzini e il testo è il giuramento della Giovine Italia, l'associazione da lui fondata proprio nel 1831 mentre si trovava in esilio in Francia dopo l'arresto per l'affiliazione alla carboneria a Genova. Di Mazzini e di tutto il resto della storia d'Italia parleremo dopo una breve pausa. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia in 24 minuti. Garibaldi, viva! Ed eccoci di nuovo con il Gazzettino del Risorgimento, edizione speciale, la storia d'Italia in 24 minuti, l'organizzazione di Mazzini, a questo eravamo rimasti, guida tentativi di insurrezione tutti falliti tra il 1833 e il 1836. A Genova è protagonista Giuseppe Garibaldi, costretto poi a fuggire e a riparare in Sud America. A Torino si dice che sei un bandito, che stai andando alla deriva, su un battello a difendere il confine uruguaiano, con un esercito che parla in italiano. Camice rosse all'avventura, in una nuvola di bandiere. Camice rosse, così nessuna, nelle ferite si può vedere. Da questo momento e fino al 1848 la storia italiana è costellata di piccole e grandi rivolte, di tentativi di rovesciare l'ordine costituito, spedizioni di liberazione fallite. E poi, appunto, succede un 48. Le violenze iniziano l'anno prima in Sicilia, solertemente represse dalla polizia borbonica. È lo stesso anno, il 47, nel quale viene redatto un testo importante. L'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio l'agrio. A scrivere queste parole è Goffredo Mameli. La musica invece è di Michele Novaro. A 99 anni dalla sua composizione diverrà l'inno italiano. Il 1848 si apre con lo sciopero del lotto e del tabacco da parte dei milanesi. Si vogliono ridurre le entrate fiscali degli austriaci in questo modo, ma la prima rivolta scatta a Palermo il 12 gennaio. Nel giorno del compleanno di Re Ferdinando la popolazione alza le barricate. L'esercito stavolta non basta, si solleva anche Napoli, il re promulga una costituzione. A Torino Carlo Alberto promulga invece lo statuto che porterà il suo nome, resterà in vigore 100 anni. Pio IX concede una costituzione. Nel frattempo si ribella a Parigi, che costringe alla fuga il re Luigi Filippo e proclama la Repubblica, e si solleva a Vienna, capitale dell'impero austriaco. Alla notizia prendono le armi anche i popoli veneziano e milanese. Qua, tra il 18 e il 22 marzo, si svolgono le famose 5 giornate. Ho sempre creduto che senza un esercito fosse da pazzi fare la rivoluzione. Ma ora, guardando questa gente, sono diventato pazzo anch'io. 5 giornate di battaglia di popolo, nella quale alla fine gli austriaci dell'ottantenne generale Radetzky sono cacciati. Posso dire solo che agli austriaci gliel'abbiamo fatta vedere. Hanno visto che razza siamo noi lombardi. Bene, bene! Intanto Carlo Alberto, alla guida dell'esercito piemontese, si decide a dichiarare guerra all'impero per annettere proprio il Lombardo-Veneto al Regno di Sardegna, ma non tutti sono d'accordo. Il popolo di Milano non si sta facendo ammazzare nelle strade per passare dalla dominazione degli Asburgo a quella di quei disonesti tagliagola dei Savoia. Pare che di questa opinione fosse anche una delle guide di questa rivoluzione, Carlo Cattaneo. Un plebiscito sancisce il passaggio della città ai piemontesi, ma militarmente Carlo Alberto traccheggia e alla fine gli austriaci riprendono possesso di Milano. Sono mesi convulsi, Parma e Modena votano l'annessione al Piemonte, mentre a Napoli una rivolta realista riporta Ferdinando al potere assoluto. A Roma viene assassinato il primo ministro del Papa, Pellegrino Rossi, e Pio IX lascia la città, viene proclamata la Repubblica. Accorrono nella futura capitale d'Italia una serie di figure centrali della storia italiana, come gli stessi Garibaldi e Mameli. Io vi conosco, voi siete Angelo Brunetti, detto il Ciceruacchio. Embe? Viva l'eroe della Repubblica. Viva! Ma anche qua, come a Milano, c'è una base popolare che si rivolta. La conservazione è però in agguato. Nel 49 gli austriaci sconfiggono i repubblicani a Roma e Venezia. Garibaldi fugge e durante la fuga muore Anita. Lui viene arrestato a Genova. Nel 50 Pio IX rientra a Roma. Gli anni successivi sono anni di repressione, ma sono anche gli anni nei quali prendono corpo politico due figure centrali per la storia italiana. Luigi Napoleone, nipote di Bonaparte, che il 20 novembre del 52 diventa imperatore col nome di Napoleone III e... Signori, il conte di Cavour. Oh, che meraviglia! Paola, è noi! Arrivo! Camillo Benso, conte di Cavour, che diventa ministro dell'agricoltura nel 50, delle finanze nel 52. I due si incontrano segretamente nella località termale di Plombières il 20 e il 21 luglio del 1858. Programmano la guerra contro l'Austria e definiscono l'assetto italiano dopo il conflitto. Garibaldi viene intanto chiamato a Torino per organizzare un corpo di volontari. L'anno dopo la guerra inizia. Gli austriaci sono subito sconfitti a Montebello. Garibaldi occupa Varese e Como. I franco-piemontesi vincono anche a due passi da Milano. Con due piedi, con due mani. Questa è la battaglia di Magenta. Tutti i bravi cavalieri. Con due piedi, con due mani, senza testa. Questa è la battaglia di Magenta. Una battaglia che consente a Vittorio Emanuele II e a Napoleone III di entrare nella città meneghina. Ma le cose non vanno come i piemontesi sperano. Napoleone firma un armistizio a Villafranca con gli austriaci che concede al Regno di Sardegna solo un pezzo del Lombardo-Veneto. Cavour si dimette per protesta, ma poi torna al governo nel 60, primo ministro, ministro degli esteri e degli interni. Palermo insorge, invoca l'aiuto di Garibaldi. Lui il 6 maggio parte insieme a 1000 volontari da Quarto, vicino a Genova. L'avanzata è inarrestabile. Marsala, Calatafimi, Palermo, Milazzo, Melito a Porto Salvo, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Napoli, Castelfidardo. Poi, tra il 1 e il 2 ottobre, l'esercito borbonico subisce la sconfitta decisiva sul fiume Volturno. Il 26 ottobre Garibaldi incontra Vittorio Emanuele II a Teano. Come sta, caro Garibaldi? Bene, maestà. E lei? Benone. Ecco il re d'Italia! Viva il re! Il primo Parlamento dell'Italia Unita si riunisce il 18 febbraio del 1861. Non c'è il Veneto, che verrà annesso nel 66. Non c'è Roma, che verrà conquistata il 20 settembre del 70, data che Garibaldi considererà sempre come quella della vera unità. Ma fatto sta che è esattamente di 150 anni fa la proclamazione del Regno d'Italia. Chiudiamo qui questo speciale del Gazzettino del Risorgimento, curato, realizzato e condotto da Simone Spezia con Roberto Scaltritti, che si è occupato del montaggio e della parte tecnica. Un grazie ai colleghi che hanno prestato la voce per le tappe dei mille: Maria Piera Ceci, Dario Ricci, Adriana Fracchi, Alessandra Tedesco, Guido Scotti, Vanessa Quinto, Valeria De Rosa e Alessandro Milan. Gli audio che abbiamo usato nell'ordine sono Silvio Berlusconi al vertice NATO di Pratica di Mare, Diego Abatantuono in Attila Flagello di Dio, il quartetto Cetra nei 100 giorni di Napoleone, Beppe Barra nel Canto dei Sanfedisti, Paolo Stoppa nella parte di Pio VII, mitico, nel Marchese del Grillo di Mario Monicelli, il trailer del videogame StarCraft 2, due brani da Fuoco su di me, il film su Gioacchino Murà di Lamberto Lambertini, una riunione carbonara dall'anno del Signore di Luigi Magni, su quell'epoca la sua filmografia è immensa e insuperata, la canzone realizzata con l'Ode Marzo 1821, che sembra di Guccini, in realtà è Bennato che imita Guccini, e non è uno scherzo. La voce del giuramento della Giovine Italia di Roberto Saviano dal programma Parla con me, La canzone Camicia Rossa è nella versione di Massimo Bubola, il suo autore, anche se tutti credono che sia della Mannoia. Il cantante dell'inno di Mameli è naturalmente Massimo Troisi, da Non ci resta che piangere. Nella parte di Carlo Cattaneo c'è Giancarlo Giannini, in uno sceneggiato Rai firmato da Lizzani, mentre gli altri audio sulle Cinque giornate sono da un film, ed è vero, di Dario Argento con Adriano Celentano. Ciceruacchio, l'eroe della Repubblica Romana, e Nino Manfredi in In nome del popolo sovrano, sempre di Magni. Infine, La battaglia di Magenta la canta Aldo a Giovanni e Giacomo, che lo guardano perplesso.